Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nel 38 la zeppa in sughero è il primo brevetto della storia della moda. Ad inventare questo modello, con suola rialzata che prende tutta la lunghezza della scarpa senza stacco nella suola, è Salvatore Ferragamo. Lo stilista declina la zeppa in multicolor per Judy Garland e la rende un must. Le donne impazziscono per le scarpe, sognano i modelli più favolosi, ne fanno uno stile di vita, ne collezionano decine. Un cliché? Forse. Ma come tutti i luoghi comuni, ha un fondo, anzi una suola, di verità. Plateau, stiletto, open toe, décolleté, Chanel, rasoterra, a ciascuna il suo modello. Tutto comincia con lei, la sorella più sfortunata che, guarda caso, identifica il suo principe azzurro in colui che le porta la scarpetta giusta, Cenerentola. No, questo è terribile. Il re che cosa dirà? E che cosa farà? Beh, forse io posso aiutarvi. No, nessuno potrà più aiutarvi. Ma vedete, io ho l'altra scarpetta. Secoli di letteratura raccontano attraverso le scarpe eleganza, libertà, viaggi, amore, seduzione, ma anche praticità. Per esempio, pare che presso gli antichi egizi i tacchi li indossassero i macellai, che non volevano sporcarsi i piedi con il sangue degli animali uccisi. Le matrone greche, per sembrare più alte, mettevano una specie di maxi plateau, un rialzo che copriva l'intera superficie della suola come una zeppa. Ma volendo rintracciare una data simbolica, il primo modello di calzatura femminile col tacco risale al 1533, quando Caterina de' Medici indossa un paio di scarpe con rialzo per il suo matrimonio a Parigi con il duca d'Orleans. Dimmi che scarpe hai e ti dirò chi sei è uno dei giochini che aiutano immediatamente, pregiudizi inevitabili a parte, a leggere la realtà. Ed è lo stesso Nanni Moretti, che di solito con i modaioli ha ben poco a che spartire, che nel film Bianca del 1984 sbircia da una finestra i piedi che passano. Nell'estate, mi sembra del 72, certe donne hanno cominciato a portare gli zoccoli olandesi, quelli bianchi. Erano stati in Olanda? Non lo so. Però un paio d'anni dopo già non c'erano altro che imitazioni. Il tacco più alto, delle orribili borchie di metallo, e invece erano belli quelli neri, semplici, un po' consumati. Li portavano ragazze con capelli lunghi e biondi sciolti sul pullover, pantaloni blu a tubo e calzettoni rossi. La passione per uno shopping sfrenato, che diventa ossessione, comincia spesso dalle scarpe. Stare coi piedi per terra serve poco in questi casi, e se proprio bisogna farlo, tanto vale indossare l'ultimo modello. Come succede alla protagonista di I Love Shopping, romanzo divertente diventato simbolo della chick lit, letteratura da pollastre, e che è stato trasformato in film. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare! Potete entrare anche da questa parte! Ho bisogno di questi guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani, basta e avanza! Comprerò questi e solo questi! Mi allontanerò, forte e parsimoniosa. Ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto! Io ho visto che li lasciava sul banco! Dammi e non ti succederà niente! Sì, no! Molla quegli stivali! Dai tacchi a spillo di Almodóvar, indossati da Miguel Bosé, a quelli che donano un incedere di classe a Marilyn in Gli uomini preferiscono le bionde. Una cosa è certa quando si parla di scarpe. Le ragazze vogliono solo divertirsi. Le scarpe da tennis, dette sneakers, vengono usate anche dagli atleti greci durante le Olimpiadi, ma è Charles Goodyear che, grazie ai suoi studi sulla gomma, consente la realizzazione in serie delle scarpe da ginnastica. scarpe. Una magnifica ossessione per le donne che, curiosamente, spesso sono stilisti uomini ad alimentare. Come il nostro primo protagonista di oggi, francese chic e raffinato, chiamato da tutti il Fragonard della scarpa. A lui si deve l'invenzione del tacco a spillo come lo conosciamo. Il suo nome è Roger Vivier. Roger Vivier. La seduttività è stata la mia ragione di vita. La seduttività, non la seduzione. Ogni donna per me può essere seduttiva. E questo potere non dipende certo dalla bellezza. È un fascino, un carisma, un'unicità che non si può inventare. Bisogna trovarlo dentro di sé. Parigi, 1907. La Ville Lumière è nel pieno dei suoi anni folli, quando Roger Vivier viene alla luce. La Belle Époque dura dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale e diventa il simbolo storico di quella leggerezza che si respira nei bistrot dove gli artisti si ritrovano a discutere di arte e di vita con un sigaro in mano. Le strade illuminate dai lampioni Liberty brulicano di persone, studenti, intellettuali, poveracci, bohemien. La vita appare in questo periodo più facile e sorridente di sempre. Le macchine a vapore rendono efficienti treni e navi. Molte linee ferroviarie sono elettrificate. Attraverso le onde radio e poi telefoniche è possibile una comunicazione in tempo reale. E il cinema, grazie ai fratelli Lumière, comincia a intrattenere il pubblico. Parigi è diventata il centro della cultura e del divertimento grazie a quelle grandiose vetrine che sono le esposizioni universali. La prima viene organizzata nel 1889 per celebrare il centenario della rivoluzione. Ed è in questa occasione che viene inaugurata la Tour Eiffel. Di giorno creatività e tecnologia, la notte la follia. A Pigalle, il quartiere malfamato ed eccitante di prostitute e gioco d'azzardo, sorge il mitico Moulin Rouge con il suo tradizionale e mai dimenticato can-can. Il cancan divenne un ballo simbolo, allegria e lussuria, spensieratezza e perdizione. Da bambino Roger Vivier passa spesso davanti ai locali vietati. È un divertimento per lui e i suoi coetanei sbirciare le ballerine che entrano con in mano gli abiti di ricambio e correre via quando qualcuno li scopre e comincia a inseguirli. Un'infanzia come tante, quella di Vivier, né troppo ricca né troppo povera, passata in giro per le strade della città e a guardare la mamma che cuce. Già, perché la mamma fa piccole riparazioni, qualche abito, sia per la famiglia che sul commissione. Non è una grande sarta, ma se la cava, e le richieste sono tante in un periodo spensierato in cui i vestiti sono tenuti in grande considerazione. Purtroppo, quando Roger ha solo 9 anni, la tragedia. Rimane orfano. Ho fatto in tempo a ricordarmi di anni felici, ma poi non è stato facile crescere da solo. Ho dovuto imparare in fretta a cavarmela, senza punti di riferimento. Vivace, creativo, amante del bello, Roger Vivier capisce presto, quando è ancora un adolescente, che vuole studiare arte. E così si iscrive all'École des Beaux-Arts di Parigi, dove approfondisce più di ogni altra disciplina la scultura. È stato fondativo per la mia carriera. Parte tutto da lì, dalla scultura. Non avrei mai cominciato a fare lo stilista se non avessi cominciato studiando arte. Mi sarebbero mancate le basi. E per le scarpe è stato fondamentale conoscere gli equilibri e l'armonia della scultura. Le cap toe, ideate alle fine degli anni 50 da Coco Chanel, sono scarpe bicolore caratterizzate dal connubio del bianco e del nero, in pieno stile Chanel. Rivisitate negli anni dai maggiori stilisti e proposte in altre tonalità, sono ormai diventate un classico. Dall'arte alla moda il passo è breve. E nel 1937 Roger Vivier, facendosi prestare qualche soldo con la promessa di restituirlo al più presto, apre la sua prima boutique al numero 22 di Rue Royale, naturalmente a Parigi. In un attimo si fa riconoscere per la sua originalità. I suoi abiti sono portatori di gusto, modernità e di un'eleganza impossibile da copiare. Le scarpe non sono ancora centrali nel suo lavoro, però si diverte a disegnarle e ne realizza poi un piede sinistro soltanto per farlo scegliere alle clienti e mandare quel paio in produzione. Già lo chiamano le grandi marche del periodo, vogliono i suoi disegni. Per la Francia, Bailly Turner, in Inghilterra e in America, Delman. La svolta, però, arriva quando Marlene Dietrich, la diva delle dive, indossa uno dei suoi modelli. Mi sono interessato sempre di più alle scarpe e ho cercato di portare il lato couture anche nei modelli di calzature. Le scarpe sono sempre state importanti per il look, ma negli anni 40 non c'era ancora questa cultura dello stilista per le scarpe. Marlene è solo la prima di una lunga serie di star e donne normali che indossano le Roger Vivier. Piacciono a tutte. Non c'è nessuna che, passando davanti alla sua vetrina sfavillante nel centro di Parigi, non si fermi a guardarle sognando di possederne almeno un paio. Costare costano, per carità. Sono interamente artigianali, disegnate in pochi modelli e per ogni modello ne vengono realizzati pochi esemplari. Ma chi le indossa si sente davvero speciale. Far sentire una donna unica e speciale. È questa la mia missione. Ho sempre pensato che a volte farsi un regalo è la migliore medicina per l'anima e il corpo. Se le scarpe possono curare la tristezza? Oh, certo che sì. Siamo nel 40. Dopo anni leggeri fatti di moda, spensieratezza, spettacoli, divertimento e cultura, adesso in tutta Europa la Seconda Guerra Mondiale sta creando morte e distruzione. Roger Vivier, che ha aperto da 3 anni appena la sua boutique, è costretto a scappare in America. Per fortuna ero uno di quelli che poteva permettersi di andare via. Avevo messo da parte 2 soldi, poca roba, ma abbastanza per prendere un biglietto e partire. Non è uno che sta con le mani in mano e ne ha già passate abbastanza quando è rimasto orfano per piangersi addosso. Vivier si rimbocca le maniche e si reinventa cappellaio. Quello in Madison Avenue è solo un periodo, ma come sempre farà tesoro di ogni sua esperienza. Una volta tornato in Europa, guerra finita e con l'Europa in pieno cambiamento, porterà tutto lo stile sperimentato sui cappelli nelle sue scarpe. Obiettivo? Essere sempre all'avanguardia, dalla testa ai piedi. Stiletto, ovvero la scarpa con il tacco così appuntito che camminarci è un'impresa. E non è un caso se il termine stiletto indica inizialmente un'arma bianca simile a un pugnale. Entrambi, come racconta divertita Ornella Vanoni, possono fare molto male. Va bene. Allora, io per anni ho portato i tacchi. Non rinunciavo ai tacchi neanche morta. Ma portavo i tacchi. Poi un bel giorno ho detto basta. Basta tacchi, io mi metto i tacchi bassi, cammino comoda, sto tranquilla e ho trovato anche una mia centralità, anche interiore, se vogliamo. Finché un bel giorno, sarà stato un attacco di vanità, un attacco masochistico, perché noi donne lo sappiamo, un po' masochiste lo siamo, i tacchi li hanno inventato gli uomini, noi siamo masochisti, ma non fino a quel punto. È che per piacere faremo qualunque cosa, ecco. Allora ho comprato i tacchi da 8. I tacchi da 8 si cammina, questi, un tacchi da 8 si cammina comodi, si cammina comodi. Poi io vorrei sapere cosa mi ha preso. Perché io dicevo, quei tacchi lì, ma bisogna essere cretine per comprarli. No, ma dico, fanno delle regolamentazioni. Fanno le regolamentazioni europee, la lunghezza dei fagiolini, la lunghezza degli asparagi, la lunghezza dei cosi, dei freni, dei sedani. I tacchi? Niente. Allora, fino a 12 si cammina, questo lo posso garantire, con fatica, ma si cammina. Al tredicesimo centimetro non si può camminare. Ha ragione Lavanoni, che parla per buon senso ed esperienza. I tacchi li hanno inventati gli uomini. Nello specifico uno, il nostro Roger Vivier, che a partire dagli anni 50 li propone per la prima volta sulle passerelle della haute couture. Preciso al millimetro, usa tutta la sua formazione artistica, scultorea soprattutto, per costruire un'estetica dell'equilibrio che, indossata, fa perdere la testa. Oh, le donne sono impazzite per i tacchi a spillo. E gli uomini non erano da meno. Amavano che le loro donne indossassero queste scarpe sexy. Il Fabergé della calzatura, come inizia a essere chiamato Vivier, utilizza per i suoi primi tacchi una lega di alluminio leggera, la stessa che viene usata per i motori degli aerei, e dedica un'intera linea a Marlene Dietrich. Nel 53 Vivier disegna, su precisa richiesta della futura regina d'Inghilterra, le scarpe per l'incoronazione di Elisabetta II. È stata un'emozione talmente grande che non si può descrivere. Vedere i fotografi di tutto il mondo che scattavano fotografie alla regina e lei aveva ai piedi le mie scarpe. Uno dei momenti della mia carriera che ricorderò per sempre. è solo l'inizio. Il pioniere del tacco si inventa le forme più strane. Tacco a palla, a piramide, a conchiglia, ad arco. E poi studia le applicazioni più ricercate, dai lacci alle perle, per rendere i suoi modelli unici. Le ballerine vengono lanciate da Brigitte Bardot negli anni 60. La diva francese si rivolse a Madame Repetto, madre del ballerino e coreografo Roland Petit, chiedendole un paio di scarpe delicate, comode, proprio come quelle che realizzava per i balletti di suo figlio. Destini incrociati. Il sandalo rasoterra esiste dalla notte dei tempi, ma a portarlo alla ribalta nella moda sono stati gli artigiani capresi, che cuciono più suole di cuoio senza mai incollarle e poi vi applicano listini di vitello o capretto e personalizzazioni di tutti i tipi. A Destini Incrociati siamo a metà degli anni 50 e Roger Vivier, stilista di Parigi, ha appena inventato un oggetto che appassiona le donne di tutto il mondo. La scarpa con il tacco a spillo. Immediatamente, fin dalla sua prima apparizione sulle passerelle, lo stiletto seduce tutte, dalla casalinga alla diva. Quelle di Vivier le indossano la mitica Marlene Dietrich, la regina Elisabetta II, persino Ava Gardner. Ma ci sono anche molti uomini che scelgono i suoi modelli. Cary Grant e i Beatles, per esempio. Adesso l'ambasciatrice del marchio che ha cambiato per sempre la moda in fatto di scarpe è Inès de la Fressange. Bellissima, chic, aristocratica. In una parola, perfetta per identificare la quintessenza della donna francese. Gli americani hanno l'ossessione del successo e del denaro. Quindi non hanno timori nello spalancare le porte sulla loro ricchezza. Lo trovano naturale. Gli europei hanno il senso della discrezione. Fingono di dispiacersi d'essere sotto i riflettori e le porte le tengono socchiuse. Ogni volta che visito un paese nuovo, guardo le donne. Come si vestono, come si pettinano, quanta cura hanno nel trucco. Le italiane seguono la moda, fanno fatica a mescolare gli stili. Le americane hanno capelli bellissimi, unghie impeccabili e comprano moltissimo. La sudamericana è elegantissima. Dal 53 al 63, Roger Vivier lavora per Dior e disegna per lui la prima collezione di scarpe del marchio. Fino al 57, anno in cui muore a Montecatini e viene sostituito da Saint Laurent alla guida della sua maison, Dior è il re assoluto della moda. Lo è diventato negli anni 40, quando, approfittando di un temporaneo allontanamento dalle scene di Coco Chanel, era riuscito a rivoluzionare la storia del costume. Quella di Dior è una donna nuova e diversa, a spalle arrotondate rispetto a quelle imbottite che si usavano prima, la gonna lunga a forma di corolla a 20 cm dal suolo, la celebre guêpière e la vita di Vespa ottenuta con un leggero bustino. Dopo anni di perplessità, le gonne si sono decise al gran salto, accorciandosi fin quasi al ginocchio. Questa è la famosa bomba Dior. Senza dubbio c'è una scoperta. Nei vestiti l'esplosione è abbastanza atomica, ma queste sono le bombe che ci piacciono anche se favoriscono una guerra tutt'altro che fredda. Pur essendo già uno stilista affermato, Roger Vivier, da Dior, impara moltissimo. L'importanza di un rapporto di stima e fiducia tra allievo e maestro è essenziale per la crescita di ogni artista, ripete sempre quando gli fanno domande sul suo lavoro. Ecco perché sarà il primo a voler replicare l'esperienza, mettendosi però dall'altra parte. Nell'88 Roger Vivier diventa il maestro e l'allievo che saprà come superarlo è il nostro secondo protagonista. Osannato, idolatrato, iconizzato. Il suo nome è Christian Louboutin. Christian Louboutin. Porto in eredità tante cose che mi ha lasciato Roger. La voglia di andare sempre oltre, il desiderio di seguire il mio istinto, anche quando sembra lontano dalla realtà. Lavorare con Vivier mi ha fatto conoscere l'importanza di osare. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Wearing these diamonds, and I could say, ooh. Everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. Brooks, Oxford o Derby Shoes sono le stringate maschili nate nell'Ottocento tra l'Irlanda e la Scozia e da 80 anni portate anche dalle donne, ad esempio da Faye Dunaway in Quinto Potere e da Ian Keaton in Io e Annie. 1964, sobborghi di Parigi. Quando Christian Louboutin viene alla luce, il suo futuro maestro Roger Vivier ha già messo le sue calzature ai piedi delle dive. Come Catherine Deneuve, che nel 67 in Belle de Jour indossa le Pilgrim Pump passate alla storia per la grande fibbia in metallo sulla punta. Le parlo francamente, vorrei un appuntamento. Non ha che da chiederlo. Ma ci verrebbe? C'è troppa gente qui. Tanto meglio. Il primo appuntamento va sempre bagnato. Certo, ci conto. Belle de Jour è un film cult e i ragazzi lo guardano e lo riguardano sognando Catherine Deneuve. Louboutin non è da meno, è attratto da quel limbo in cui si muovono soubrette, regine del burlesque, prostitute che fanno di femminilità e seduzione la loro ragione di vita. Frequenta spesso i cabaret di Pigalle e i nightclub delle zone più malfamate di Parigi, travolto da un turbine di paillette, tacchi a spillo, pizzi e lingerie. Le showgirl lo distraggono anche dalla scuola. È ancora un adolescente quando decide che è di quel mondo glamour e sfavillante che vuole fare parte. Sempre di più studia i costumi, poi va a casa e li riproduce con carta e matita. Si accorge che può provare a fare di questo talento un mestiere quando una scuola di danza abbastanza rinomata in città gli chiede dei disegni per lo spettacolo di fine anno. E lui, neanche a dirlo, accetta entusiasta. No, non era certo un grande incarico. Era una scuola di danza abbastanza rinomata, ma non internazionale. Ma si sono fidati di me e del mio gusto e mi hanno lasciato fare. Ci ho messo un bel po', a dir la verità, ma ho realizzato dei costumi di scena che ancora oggi, a rivederli, mi emozionano. All'inizio degli anni Ottanta, il ventenne Christian Louboutin ha ormai scelto la moda. Sa che la strada non sarà in discesa, ma vuole provarci a tutti i costi. Inizia con un praticantato al Folies Bergères, per poi lavorare con Charles Jourdan in Romain. Libero di natura, allergico ai vincoli e agli obblighi imposti dall'alto, trova la sua dimensione nell'essere freelance e comincia a collaborare con alcune grandi maison italiane e francesi come Chanel e Yves Saint Laurent. Ho imparato moltissimo. Da una parte c'era questa eleganza raffinata e chic che volevo però a tutti i costi mescolare con la mia passione per i nightclub. Ancora non sapevo esattamente dove andare, ma sentivo che stavo forgiando uno stile personale che univa la classe a un gusto vagamente retro. Siamo nell'88 quando Louboutin, chiamato a collaborare con il leggendario stilista di scarpe Roger Vivier, entra nell'atelier e viene folgorato. Nota infatti un paio delle décolleté di diamanti indossate da Marlene Dietrich e un paio di scarpe indossate all'incoronazione dello scià iraniano Reza Pahlavi. Capisce immediatamente che ha trovato quello che cercava. Nelle calzature individua il perfetto veicolo del suo stile ancora in fase di definizione. Le Mary Jane, punta tonda e cinturino al collo del piede o alla caviglia, nascono senza tacco per le bimbe e diventano anche alte. Devono il loro nome a Mary Jane, la sorella di Buster Brown, personaggio principale del fumetto creato da Richard Outcault nel 1902. Destini incrociati. Il classico mocassino in pieno stile preppy nasce negli anni 50, quando un gruppo di studenti della preparatory school, da cui il termine preppy, infilano un penny nella fessura delle scarpe come portafortuna. Negli anni 60, Gucci aggiunge una fibbia. Nel 1988, lo stilista Christian Louboutin, che ancora non ha definito in pieno il suo stile, entra per la prima volta nell'atelier di Roger Vivier, il grande maestro della calzatura già allievo di Dior. Una folgorazione. Le scarpe sono il suo futuro, capisce Louboutin. E gli insegnamenti e l'esperienza di Vivier trasformano una passione in una preziosa arte manifatturiera. Le scarpe mi hanno sempre sedotto. Fin da ragazzino giravo con i miei amici per i night e rimanevo ore a guardare i costumi delle regine del burlesque. Già, il burlesque. Sull'onda della moda vintage negli anni 90 torna a prendere piede questa forma teatrale nata nell'Inghilterra del XVIII secolo, che vede sul palco ballerine e stripper su tacchi vertiginosi. Perché non ispirarsi al burlesque per una collezione? Louboutin lavora giorno e notte, disegna, straccia, modifica, cambia la forma, il colore, le decorazioni. Ad affiancarlo un assistente che sulle unghie ha sempre uno smalto rosso perfetto. Da qui l'idea di fare la suola delle scarpe dello stesso colore, rosso fiammante. L'idea mi è venuta guardando le sue unghie in perfetto stile burlesque. Il rosso è tipico della seduzione anni 50 e io trovo che in quel periodo le donne fossero meravigliose, curate, eleganti, seduttive, come diceva sempre il mio maestro Roger. Ho anche pensato che avere un segno di riconoscibilità come una suola rossa mi avrebbe aiutato a farmi emergere sul mercato. Volevo che la gente dicesse: «Ehi, quelle sono delle Louboutin», semplicemente riconoscendole dalla suola. Intuito, estro, talento e un pizzico di marketing si rivelano la ricetta vincente. Christian Louboutin nel 92 apre la sua prima boutique nel cuore di Parigi ed è un successo. Come previsto dal couturier, tutte vogliono scarpe con la suola rossa, quei tacchi vertiginosi che fanno sentire uniche e speciali. Gli anfibi, nati per i soldati, sono accessori di gran moda. Gli anni 70, che vedono esplodere le controculture, li rendono immortali. Greci e romani usavano già gli stivali che hanno attraversato i tempi e sono giunti ai giorni nostri. Mentre i cuissard arrivano fino a metà coscia, gli hagboot di pelo andrebbero portati senza calze anche d'inverno. L'apertura del primo negozio targato Christian Louboutin è un vero successo. E altrettanto si può dire della sua prima collezione dal titolo Love, Trash, etc., che spopola tra le parigine, poi in tutta Europa. Altissime, con plateau vertiginosi e una suola inconfondibilmente rossa, le Louboutin diventano in fretta le preferite di quelle donne che vogliono fare della seduzione uno stile di vita, proprio come Edith Fontis, la regina del burlesque. Lo stile non ha niente a che fare con la moda. Non bisogna cercare di seguire la moda di stagione. A volte la gente pensa che un aspetto naturale sia per forza più sbrigativo, ma non è così. Christian mi ha capita fin dall'inizio. Ha capito che volevo unire charme e una seduzione fuori dal tempo e ha cominciato a disegnare le scarpe per i miei spettacoli. Ora se ne occupa sempre lui. È un grande amico e non vorrei nessun altro al suo posto. Nel frattempo la suola rossa è diventata oggetto di una contesa giudiziaria. In molti hanno cercato di copiarla, ma Louboutin continua a rivendicarne con orgoglio la paternità. Nel 2011 lo stilista fa causa a Yves Saint Laurent per presunte violazioni di brevetti. La corte d'appello di Manhattan gli ha dato ragione, ma non del tutto. Solo se la suola contrasta con il resto della scarpa e quindi non se le scarpe sono rosse. Ma ormai le Louboutin sono diventate un'icona. Da Beyoncé a Victoria Beckham, da Eva Longoria a Gwen Stefani, senza dimenticare Madonna e Lady Gaga. Le dive adorano le Louboutin, che nel 2012 ha celebrato il suo primo ventennale di carriera con una mostra al London Design Museum. E con Sex and the City, vero manifesto della passione femminile per le scarpe, il successo è amplificato all'ennesima potenza. È ingiusto, è una tortura. Perché mi stai facendo questo? Non posso comprare scarpe. Ma io devo comprarle per forza. Quelle che ho non mi entrano. Mi sono ingrassati anche i piedi. Carine queste. Sto cercando una cosa comoda. Allora queste te le provo io, eh? Scusi, senta, potrei provare il 37 e mezzo di queste rosse. Oh, aspetti. Sì, anche queste qui. E magari queste. E beh, facciamo tutte queste anche. Però, senta, qualunque cosa succeda nei prossimi 20 minuti, premetto che per nessuna ragione al mondo posso comprare niente. Le provo per divertirmi. Ma in quanto me. C'è chi dice che nessun uomo capirà mai una donna come una donna. Ma Roger Vivier e Christian Louboutin hanno fatto molto di più. Hanno fatto sentire ogni donna a un passo dal cielo, dritte e orgogliose nei loro tacchi a spillo. Now you got me stressing out on the phone. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.